piano. Quindi buongiorno a tutti, avete tutti il testo della prigioniera? Chi è che manca? Ah, bene, non in questo modo, la Carletti. Eccezionalmente faccio una fotocopia per questo passo, ma deve essere ben chiaro che dal prossimo passo chi non ce l'hanno se questa fotocopia è questa fila, chi è che manca la prigioniera? Quante persone sono già di vita mia? Dica lei, dica lui. l'olocausto è poco rispetto ai numeri dei concerti, però ha anche dato dei prodotti meravigliosi. Ho una volta dato 53. Dovete leggere il testo e in francese le parti che considerate. Siamo arrivati a questo onorevole compromesso, ma che io sul tavolo delle tavole non voglio vedere un testo di traduzione, perché le parti che consideriamo, quelle sono da leggere in francese, da commentare. Diretto con l'esercito italiano. Ma pure una cosa seria, l'università la si fa sul testo originale, evidentemente, no? Bene. La prigioniera tratta di una prigioniera, che sarebbe la donna amata dal protagonista, che stiamo ormai considerando da parecchio tempo. Non so se vi ho fatto un'osservazione sul fatto che questo è puzza di sigaro. Sì. Ve lo avete fatto un'osservazione, capire? È ambiguo, avete battuto un po', perché è uno scandalo? Non lo so, che dice lei? E il narratore tiene in casa prigioniera, tra virgolette, la sua ragazza. Questo avviene mentre la madre non c'è, perché la casa è quella dei genitori, e la madre, che è estremamente protettiva nei di lui confronti per la sua malattia, nonostante la sua protettività, insomma, ha visto con una notevole perplessità, dovete pensare ai tempi, non so che siete abituati adesso a più depravate abitudini di contumacialità sessuale, ma allora non era così. Quindi la madre vede male che lui sia per questa ragazza in casa, tanto più a porzioni lo vede male chi sta in casa con il narratore, e cioè la governante Françoise, che è una donna di campagna, che è una specie governante al mondo una volta, con sanissimi saldi principi e l'idea di vedere questa ragazza di grande bellezza e principi morali abbastanza cedevoli, che sia in casa con il suo padrone, giovane padrone, la turba, la trappola. Prigioniera, ma in che senso? Che la tiene incarcerata? E qui è tutto, no, evidentemente, non è che le ha messo le manette o la legata, ma la circondata di un clima tale per cui è come se fosse prigioniera, è come se non potesse più uscire da questa gabbia, dalle sbarre d'oro in cui pure si trova, finché a un certo momento la prigioniera di notte, in una scena tra le cose più grandi della letteratura universale, fugge. E vi anticipo, fugge quando lui aveva già deciso di liberarsi di lei, e quindi apparentemente non recando un grave dolore a lui, perché la decisione era stata presa da lui inizialmente. Ciò non di meno, le cose dell'amore vanno così, avendo lei anticipato la decisione che lui voleva prendere, questa per lui diventa una ferita, diciamo una lista, una ferita narcisistica spaventosa, e dagli fuori è come se fosse diventato folle, e c'è la più grande descrizione del dolore per amore che sicuramente, non dico io, dico insieme a molti, a moltissimi, che sicuramente la letteratura universale, non solo francese, abbia mai conosciuto. La più grande descrizione del dolore per amore, quando la persona amata ti abbandona. E tutto il secondo libro, La Sisyphide, è dedicato al dolore in seguito alla perdita della persona amata. A che cosa è dedicato invece il primo? È dedicato anzitutto a uno studio della donna. La donna si chiama Albertina. La donna ha delle caratteristiche che già mi sembra di avervi segnalato, che comunque vi ripeto. È una donna molto bella, di estrazione sociale piccolo borghese, curiosa, intelligente, moderatamente, ma non abbiamo ancora detto la cosa sostanziale, enigmatica, impenetrabile. Diciamo che nei confronti di questo amante, e tra poco vedremo in che senso è amante, di questo innamorato amante, ha una posizione suddita di devozione. È praticamente impossibile, leggendo tutta questa lunga storia, non avere un penchant amoroso nettissimo nei suoi confronti. Per anni della mia vita, quando ero giovane, ero convinto di incontrare, o quando avevo a un angolo della strada, Albertino. A un certo momento hai la sensazione che Albertino sia lì, che sia una persona che tu conosci, che puoi incontrare. Questa è una sensazione stranissima che producono pochissimi personaggi della letteratura universale. Ma la sensazione di Albertine tu un giorno la incontrerai. Che rapporti ha con quest'uomo che è il protagonista? Non lo sappiamo. Possiamo dire con certezza che non sono rapporti normali, non sono rapporti, diremmo, di sesso consumato, almeno in modo completo. Ma non si sa. Tutto questo è lasciato in forse. Certo, chi volesse trattare questo capolavoro assoluto della letteratura universale per sollecitazioni pruriginose delle sue voglie sessuali, ha sbagliato mica, perché non c'è una sola scena, non dirò pornografica, ma non c'è una sola scena realmente consona, insomma, all'idea che noi abbiamo di un eros consumato. Chi sa Albertino? Non lo sappiamo. Diciamo che sappiamo l'inizio, cioè sappiamo che Albertino era una jeune fille, fleur, quindi era un adolescente. E quanti anni ha lui? Non lo sappiamo. Quello che è certo è che il libro è pieno di splendidi anacronismi, ma soprattutto che su questo discorso dell'età si sfugge. Quando la recherche finisce, quanti anni ha il narratore? Gli altri sono diventati vecchi, e lui, anche lui deve essere diventato vecchio. Gli altri hanno i capelli bianchi, e lui? Però in realtà il tempo è troppo breve per essere diventato vecchio. Quanto è il tempo che è passato? 30 anni? 40 anni? Ma forse meno. Forse meno. Comunque al tempo della prigioniera possiamo dire che lui è un giovane, certamente assai più grande di lei, su questo non c'è dubbio. Possiamo ipotizzare almeno una decina di anni di più. E tanto per toglierci la soddisfazione di avere qualche punto di riferimento, potremmo dire che lei è una, diciamo, una ventenne, 20, e lui avrà una decina di anni di più. Mettiamola in questo modo, ma non abbiamo delle indicazioni precise. Che cosa fa lui con lei? Cioè, accertato che non hanno dei furenti abbracci, che cosa fa? Le sta vicino e la educa. Cioè, tutta l'intensità erotica, che è altissima, è come dire convogliata nell'educazione della ragazza. Voi sapete che questo tema dell'educazione delle ragazze è un tema della topica erotica di ogni tempo, no? Perché non soltanto per i vantaggi sessuali che se ne possono avere, ma per l'idea di poter modellare una persona, modellarla nel momento in cui la sua femminilità si sta costruendo. Quindi è un'educazione. È un'educazione a cui, in modo servile, lei si sottopone, lei accetta questa educazione, adora il narratore, lo tradisce, non lì sembra, perché è sempre in questa casa, ma non è certo, perché di tanto in tanto esce. E come la educa lui? La educa parlandole delle cose belle della vita, e segnatamente dell'arte. Lei è curiosissima, diceva. Quindi le parla di letteratura, delle arti, delle tre grandi arti, di letteratura, di pittura e di musica. Inutile dire che parlando di letteratura, di pittura e di musica, Proust ha modo di poter esprimere tutte le sue idee alla riguardo. È un punto, per esempio, in cui Albertine, conoscete tutti lo scrittore Dostoevskij, in cui Albertine dice a lui, si rivolge a lui sempre dandole del voi, cioè del lei, vediamoci bene, è il voi, il rapporto che cerca di voi, e gli dice: io volevo farvi una domanda, come mai Dostoevskij in tutti i suoi romanzi ha sempre rappresentato degli assassini? E se per caso Dostoevskij avesse rappresentato degli assassini perché fosse lui stesso un assassino? Noi considereremo questo passo bellissimo, credo che abbiamo detto, indimenticabile, in cui il narratore ha modo di dire perché Dostoevskij parlava, di spiegare perché Dostoevskij parlava di assassini. Era Dostoevskij anche lui un assassino? E che l'idea di come ognuno di noi possa essere un assassino uccidendo la persona che amiamo, con le cure, con le ansie, con gli affanni che gli procuriamo. Quando Proust scriveva questo, pensava almeno a due cose. Pensava agli affanni che lui aveva procurato a sua madre, all'omosessualità taciuta e spaventosamente scandalosa per il suo ambiente e la sua famiglia, ma pensava anche non solo agli affanni che lui aveva procurato a sua madre, ma anche agli affanni che gli aveva procurato l'uomo che aveva amato, l'unico grande amore della sua vita. Proust ha cominciato le sue relazioni sessuali nel 92-93, quindi era giovane, è inutile dire i dettagli, dice un certo Willy Heath prima, poi Reinaldo Arn, che era un musicista dell'America del Sud, ma il grande amore fu Alfred Agostinelli, con un nome quindi italiano, Alfred Agostinelli. E questo Alfred Agostinelli è Albertine. Quindi lui racconta questo suo amore per una donna mascherata. Si tratta in realtà di un uomo. Proust non ha mai amato donne, salvo una con cui aveva rapporti sessuali, ma non è provato, che si chiamava lui, molto bella tra l'altro, si chiamava Louise de Mornant, ma il suo amore, chi sta dietro Albertine, è un uomo, è Alfred Agostinelli, che inizialmente venne da lui come autista, e a Balbec, al mare, posto fondamentale, perché la ricerca si svolge in questi posti, diciamolo subito, si svolge in tre posti. Si svolge a Parigi, il paese da dove venivano, Pilier, di cui vi ho parlato, Combré con cui inizia il romanzo, e un posto di mare che era Balbec in Normandia. Balbec non esiste attualmente, sarebbe stato Trouville, ma insomma, nel romanzo è Balbec. A quanto riguarda i nomi, occorre dire, la ricerca del romanzo, nelle sue 3100 pagine di tipo di nomi, che i nomi sono tutti quanti alterati. Nomi di luoghi e nomi di persone. E che, al di là di tante congetture che sono state fatte, le cose funzionano così, che per costruire un personaggio della recherche, del suo romanzo, lui si è servito sempre di uno, due o più modelli della realtà. È chiaro il punto? Uno, due o più modelli della realtà. Il più importante libro di ricostruzione delle vicende prustiane è stato tragicamente sorpassato da studi che sono stati fatti. Ne rimane bellissimo. E l'autore è George Painter, attore, edito da Filippinelli, credo, si chiama Marcel Brunito, un volumone così che si legge come un libro giallo. Però il libro è stato enormemente sorpassato, anche se questo libro è di introduzione fondamentale alla recherche, dagli studi che sono stati fatti nei 40 anni successivi, perché questo libro è un libro degli anni 50, e attualmente l'edizione che fa testo della ricerca e gli studi intorno di Tavier sono i migliori, diciamo così. Però, sostanzialmente, in un'opera così ricca e così complessa, anche se per gli studiosi i fatti filologici sono fondamentali, la cosa che importa è capire le linee conduttrici e capire il senso degli episodi che sono raccontati. Quindi dico, ecco, ovviamente è il più importante libro del XX secolo, senza alcun dubbio, insomma. Bene, l'educazione, l'età, abbiamo detto, l'arte, la letteratura, il desiderio progressivo di liberarsi di Albertine. E adesso veniamo a come nasce. Ah no, scusate, non vi ho ancora detto una cosa. Non vi ho detto la storia di Agostinelli. Agostinelli era un bisessuale. Quindi si sposò. Fu prima l'autista suo. Aveva un figlio tondeggiante, era un Bruno, ed era sicuramente, per dirla tutta, era omosessuale passivo, no? Mentre Proust era attivo, usando queste espressioni per intenderci. Poi l'abbandonò, poi ci furono delle separazioni tra Proust e Agostinelli, finché si arriva al fatto che Agostinelli vuole tornare a servizio di Proust. Proust però non ha più bisogno di un autista e allora diventa segretario. Agostinelli ha una passione, la passione di volare. Allora si comincia a volare. Quindi si iscrive a una scuola di volo e con una situazione, come dire, mitologica, alzandosi in volo sopra Antibes, sulla costa azzurra, nell'inesperienza di un giovane che comincia a volare, non riesce a prendere quota come doveva nel momento giusto e precipita nel mare davanti ad Antibes e muore. La morte di Agostinelli è la più grave tragedia della vita di Proust. Dopo la morte della madre, non del padre con cui non era affatto contatto, dopo la morte della madre, rimase per giorni e notti chiuso in casa al buio. Dopo la morte di Agostinelli, essendo già un pochino più avanti negli anni, ebbe la sensazione che tutto fosse finito. E in quel tempo, siamo nel 1914, che scrive La prigioniera. La prigionia viene scritta nel 1014 e poi riscritta tra il 15 e il 17. Che cosa racconta la prigionia? Per capire che cosa racconta, si è trovato molti anni fa un carnet, un taccuino, che è del 1908, cioè siamo grosso modo, sono state date infinite interpretazioni, che non sono naturalmente per voi, grosso modo la ricerca viene cominciata a scrivere nel 1909, ma grosso modo, per esempio il mio maestro Giovanni Mancia riteneva che fosse anteriore la cosa, io penso che avesse torto. Penso che fosse tutto sommato nel 9, perché nell'8 ci sono però degli appunti precisi, io mi ricordo quando uscì questo carnet, che mostrano la nascita della ricerca. E nel carnet 1908, pietra miliare per gli orologi industriali, si dice a un certo momento, ci sono queste due righe in cui si dice quello che si farà. E le righe sono queste qua. Allora, dice così, dice soltanto queste parole, e direi anzi il fatto che queste parole rimangano così nel vuoto le rende tanto più enigmatiche e fascinose. Dice così: la fanciulla sarà rovinata, io la manterrò, ma senza cercare di possederla, senza goderne, per incapacità di essere felice, per l'impossibilità di essere amato. Vi rileggo queste bellissime righe. La fanciulla sarà rovinata, io la manterrò, ma senza cercare di possederla, senza goderne, per incapacità di essere felice, per l'impossibilità di essere amato. Innanzitutto vi prego di notare la bellezza di questo incipit, la fanciulla di questo punto, appunto questo, sarà rovinata. Cioè c'è l'idea che l'avvilimento, l'idea statica, che l'avvilimento dell'oggetto d'amore ti possa dare il massimo dei piaceri, no? Nella ricerca si stabilisce una volta per tutte che l'amore non è tra due persone uguali, ma tra uno che sta sopra, nel senso non dice, come possiamo capire, nel senso psicologico, è uno che sta sopra. E se uno cerca di arrivare, che so, per una sorta di femminismo, oppure perché è un uomo debole, insomma, se uno cerca di arrivare a un'equiparazione, di stare sullo stesso piano, zac, la cosa finisce. Fra amici, questo è la morale della ricerca, fra amici non ci siamo. Uno deve fare il padrone, può essere l'uomo, può anche essere la donna naturalmente, ma uno deve fare il padrone e uno deve avvilire, affrontare l'altro. Questa idea terribile, è raccontata in modo terribile, è ben espressa da questo incipit, qui dice, dall'appunto dove dice, la fanciulla sarà rovinata. Rovinata anche perché? Per motivi, direi proprio così, di bieca osservanza borghese, una che sta per tanto tempo in casa del narratore, no? E poi scappa, e poi che succede? Non vi dico la fine di Fantastica, questo non lo dico. Lo saprete a un certo momento la fine di Fantastica. Io la manterrò, no? Io la manterrò. È ricco, dovete pensare che un altro aspetto della verticalità è questo, che lui è un miliardario. Mentre lei è poverissima, lui è più grande di età, lui è colto, lui è espertissimo, lei è ingenua, lei è povera, però ha una ricchezza, Albertina, una ricchezza impagabile e incomprabile, la ricchezza che ha ogni oggetto d'amore. quello di poter fuggire. E in quel momento non ci sono più miliardi nei poteri che tengano. Tra amato e amante, e non vedo dubbio che il narratore è l'amante, e non Albertin, stiamo per dirlo, il potere unico, assoluto, è quello dell'amante. Albertina ama, dato che tocchiamo questo punto, lo vedremo, ama il narratore? No. O perlomeno non lo sappiamo, ma probabilmente no. E direi la delicatezza con cui tutto questo è presentato è estremamente suggestiva, no? Probabilmente no. E quindi ha il potere tutto dalla sua parte. Ricordate, lo racconto sempre ogni anno quando si parla di queste cose di amore in letteratura, il vecchio proverbio siriano, per siriano, che diceva questo, di due cuori. Lo sapete quello di due cuori nel proverbio siriano? No, di due cuori. Uno è sempre più caldo e l'altro è sempre più freddo. Quello più caldo non ha valore ed è gettato via. Quello freddo è più prezioso di un brillante. È un proverbio splendido, eh? Un proverbio splendido. Senza cercare di possederla, lo dice qui, senza goderne, per incapacità di essere felice. Questa espressione è meravigliosa, per incapacità di essere felice. Perché in realtà bisogna, in senso lato, non solo in senso buono, bisogna essere capaci di essere felice, no? Per esempio, tu puoi fare un viaggio, non so, un viaggio che mi piacerebbe fare, no? Alle Maldive, io un po' sicuro non andrei nemmeno con un coltello alla gola, ma alle Maldive, e tu puoi, in un viaggio alle Maldive, io immagino, tetramente quello che ci può essere alle Maldive, le palme, frutti di cocco, giovani, ragazze, nude, tutte nude, rigorosamente nude, per turisti che ti accolgono, ti obbligano a prestazioni sessuali tutto il giorno, prova ad ammazzarti, uno si immagina, però se non hai la capacità di essere felice, non sarai felice. Uno può essere ricco, mi sta venendo in mente un ricco d'Italia, di cui spero ardentemente che non sia felice. È un ricco, non so se ne è mai parlato, è un ricco un po' caldo, con i tacchi alti all'Italia. Come si fa a essere felice? Questo è uno dei grandi, splendidi temi che ha tratto. Come si fa a essere felice? Io posso essere felice ad andare in un ristorante a 5 Stelle. Ma posso anche essere felice, cioè, sarebbe un grosso sforzo di fantasia, mangiando un travestino qui al bar. Ho mangiato uno, orno dei guai, di travestino. Di prosciutto ce n'era fatto così. Tutto il resto era un panaccio secco, osceno. Mi hanno dato una mordicchiata e poi l'ho buttato nel cestino. Però tutto questo accade perché sono un occidentale ben pasciuto, no? Ma se io venissi da un posto dell'Africa non avendo mangiato per 35 giorni, vi assicuro che quel panino l'avrei trovato migliore. Come si fa a essere felici? Se uno è abituato a essere, vedo delle ragazze abituate, conosciute in tutta la vita, a essere corteggiate da pinco, pallo e pallino. E quindi quando è arrivato il momento clou per loro sentimentale, abituate a essere così ben trattate, non sapevano essere felici, non so se io ne ma ci sono invece, ho conosciuto degli scalcagnati della vita e dell'amore, uomini e donne, brutti, i grandi brutti, che poi sono la grande dell'umanità, le brutte, le ceneri, le famose cozze, no? Le cozze, i cozzi, insomma, si può dire. E qui, quando hanno trovato qualcosa, avevano la capacità di essere felici. E questa frase è molto bella, quella che leggo qui, per incapacità di essere felice. Lui solo aveva tutto, aveva il danaro, aveva anche una salute in quel momento relativamente buona, questa donna che gli stava intorno come uno da Lisca, aveva la sua intelligenza, e tuttavia non era felice, per incapacità di essere felice, per l'impossibilità di essere amato. Questo è molto più semplice da spiegare. Non riusciva a essere amato. Ma perché non poteva essere amato? Perché anche questa è una frase bellissima, su cui vale la pena un secondo fermarci, per l'impossibilità di essere amato. Perché? Perché è impotente? No, dice qualcosa di più, perché allora avrebbe detto per l'impossibilità di amare, e allora vuol dire che era potente, ti amo, no? Ma per l'impotente era perché è la persona che era troppo lontana da lui. Ma se una persona è lontana da te, come carattere, come modalità di spirito, non puoi essere amato. E quindi lui voleva raccontare questa tragedia. Di che parla la prigioniera? Parla di due temi. Il primo è questo. Ma si può rendere prigioniero un altro essere umano? Si può renderlo prigioniero? Magari per amore, anche per amore. Non si può. Perché anche se la persona consente a stare con noi, ma l'anima, il cervello di questa persona, dove sta? Ecco perché dice lui nell'espressione possedere, che normalmente si usa da parte dell'uomo nei confronti della donna, ma che è anche usato nel linguaggio amoroso da parte di una donna nei confronti dell'uomo, è un'espressione assolutamente, dice, insensata. Possedere. Perché i pensieri della persona, tu puoi andare a letto con una persona, ma i suoi pensieri, no? Come fai a possedere i pensieri di una persona? E mettiamo che riuscissi a possedere i pensieri di una persona, per ipotesi assurda. Ma l'obiezione che si fa è questa. E i ricordi di una persona, come fai a possedere? Quando tu incontri una persona, questa persona è qualche giovane, è una persona che aveva vissuto 20, 30 anni, no? E che ha fatto in questi 20, 30 anni? Ha incontrato persone che gli sono state care, che ha amato. E queste persone fanno parte, sono diventate cromosomicamente parte del suo mondo mentale, del suo immaginario. Una delle ragioni per cui quando due ragazzi della vostra età si mettono insieme, e stanno tanto, come voi sapete, facendo saltare le linee del telefono, i telefonini, le schede, che scaricano, le compagnie cantanti, eccetera, eccetera, e perché uno parla all'altro. Di che parla all'altro? Le telefonate di cui sicuramente chi ha avuto storie del genere, tutti i genitori li hanno rimproverati, ma non è possibile che fai due ore al telefono, se sarà capitata una cosa del genere. Di che parla un ragazzo a una ragazza? Ma di tutto parla di una squisitezza che è il niente. È come dire lo spappolarsi della vita quotidiana, delle notizie dell'amico, dell'amica, di quello che ha incontrato, di quelli che sono progetti a breve e medio termine, eccetera. Ma poi quando il rapporto si rafforza e quando le persone mostrano una maggiore, più viva sensibilità, allora sapete che cosa fanno? Parlano del loro passato. E lì comincia una sorta di seduta psicoanalitica permanente, sostanzialmente. Perché si comincia a raccontare naturalmente dei parenti contingenti, dei genitori, del fratello, della sorella, e poi si arrivano agli ex, facendo naturalmente debitamente turbare il partner, perché ogni racconto suscita gelosie retrospettive, ma dove poi si va a frugare più in fondo nelle cose che appartengono alla nostra vita, ci si rende conto di una cosa, che la nostra vita interiore è inesportabile. E quindi che per quanti sforzi facciamo di raccontare noi stessi all'altro, naturalmente quanto più si è giovani meno si hanno ricordi, Ma più si è vulnerabili, quindi quanto più uno in questo momento qui decidesse di iniziare una contemporaneità con una signora, a questo punto, contemporaneità non l'avevo inventato io, con una signora è contubernio, stare sotto la stessa testa, che avesse una donna, età naturalmente commisurabile, non alla mia, se no non la sceglierei. Ma insomma, ci sarebbe una. E quanto dovrei raccontare? Giorni, mesi, anni, le donne avute nella vita, gli uomini, è una storia terribile da raccontare, non lo farei nemmeno con un fucile puntato, eh? Resta comunque il fatto che non si può possedere i ricordi di una persona, né si possono possedere i pensieri della persona, quindi che è una follia imprigionare una persona. E tuttavia, attenzione, questo è un punto fondamentale, non c'è amante, questo ci dice Proust, che non cerchi di rendere prigioniero il proprio oggetto d'amore. Non c'è amante. Non c'è amante in altri termini che non lo controlli, stando ai tempi attuali, che non abbia delle telefonate periodiche, che non si informi quando torna la sera, chi vede, chi non vede, chi gli ha telefonato, chi gli ha scritto. Mi seguite bene? E come mai la frequentazione con un certo tale o una certa tale diventa più frequente di quanto le convenienze potrebbero autorizzare? Quindi è come una fatalità essere gelosi. E questo è il primo tema. C'è un secondo tema. Il secondo tema è esattamente questo. Quando noi riusciamo a dar per posto che, ammesso e non concesso, che riusciamo a far prigioniera una persona, ammesso e non concesso nel senso che la persona non è prigioniera, ma noi crediamo che lo sia, quando noi percepiamo che la persona è diventata, in una storia amorosa, nostra prigioniera, la persona non ci interessa più. Non ci interessa più. E questa è la ragione scientifica per la quale i matrimoni sono tutti infelici. Voi dite, ma poi lei sta dicendo una cosa, mi dica quasi tutti. Nella misura, che cosa c'è al posto dell'amore? Sono tante altre belle cose, che non sono l'amore. Perché l'amore ha bisogno, dice Proust, che la persona fugga. Noi amiamo solo, ricordatevi questa espressione fondamentale, noi amiamo solo être de fuite, essere in fuga. Scrivetelo. Lei lo prende appunti? Amiamo solo essere in fuga. Nel momento in cui la persona si ferma, diventa ai nostri occhi destituita di interesse. Naturalmente noi non lo sappiamo, anzi io mi convinto che quando la persona l'ha messa sotto la campana di vetro è assolutamente convinta di vabbè, la mia vita è risolta, e non capisce che in quel momento è cominciata la più tragica delle disgrazie, cioè che l'unica sua gioia, quella di amare, non ci sarà più. Continuiamo domani. Portatevi tutti a